sé yo. Viene lento divagar una música brutal, encendió nuestra pasión. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Soprattutto il lunedì mi piace sottolineare il senso della nostra musica, la canzone della sigla d'apertura di Gotham Project. Svegliamoci voi io, nel lento divagare, una musica brutale incendiò la nostra passione, ma soprattutto il senso del risvegliarsi. Uno dei temi dominanti di questo programma, l'avrete capito, è la lettura e l'interpretazione dei simboli che ci circondano. Voi pensate che il simbolismo è un movimento poetico e letterario ormai datato di un secolo e mezzo circa, e però consideravano alcuni poeti che la natura fosse in realtà una foresta di simboli. Questa è una definizione di Baudelaire: simboli da interpretare per capire quale sia il mondo. Quindi ogni anfratto, ogni foresta, ogni rudere rappresentava qualcosa da interpretare. Anche una carogna di un cane con le budella di fuori davano un senso profondo della fuggevolezza dell'aspetto fisico della propria amata. Quando tu guarderai il verme che ti mangerà la pelle, ti renderai conto che è il mio amore eterno. Questo diceva Baudelaire. Beh, oggi siamo ugualmente circondati da una foresta di simboli. Immaginate, o almeno questa è una mia visione, cerco di contaminarvi con questa visione, che noi attraversiamo quello che è il tunnel degli specchi in un Luna Park, quella meravigliosa macchina in cui si entra e non si trova mai la via d'uscita, perché ci si riflette continuamente con la propria immagine, immagine a volte realistica, immagine a volte deformata, perché ci sono anche degli specchi deformanti. Il mondo contemporaneo poi per modo di dire, perché sto parlando di un arco di tempo che ormai ha quasi 50 anni, ha la possibilità di farci passare attraverso un tunnel di specchi, che è quello del mondo della pubblicità. La pubblicità riproduce la realtà, la pubblicità crea dei modelli del reale. Il reale si riflette nei modelli pubblicitari e a sua volta tende ad assimilarli, ad essere come ciò che viene presentato dal modello. Tanto che l'essere umano di fronte allo spot pubblicitario, perché parlo di pubblicità soprattutto televisiva, che è la pubblicità più forte, quella che più crea un modello, una pubblicità che si muove, una pubblicità che mostra esseri umani come noi, quindi noi vogliamo essere come loro, e se anche non vogliamo essere come loro, comunque siamo contaminati da quello che loro ci presentano. Immaginate che la pubblicità ci mette di fronte a uno specchio. Di fronte a uno specchio noi perdiamo il senso dell'esistenza e non capiamo più se lo specchio riflette quello che noi siamo o quello che noi vogliamo essere, o lo specchio ci dà un suggerimento per essere noi esattamente com'è quella cosa che vorremmo, in cui vorremmo rifletterci. L'argomento è un po' questo oggi: il reale e il pubblicitario. Quanto vi sentite contaminati dalla pubblicità, quanto la pubblicità insiste nella vostra vita quotidiana, ma soprattutto la pubblicità è un po' il tessuto connettivo dei vostri ricordi, perché chiamerete sicuramente all'800 24 00 24 dopo aver sentito questa cosa qua. Buongiorno, volevo dire quanto era bella la televisione 40 anni fa, quando c'era il carosello che diceva: bambini, tutti a letto. Beato il carosello di una volta, che rimandava a letto tutti, dai 12 anni ai 15 anni. Sentite? La nostalgia per una cosa orribile. Ne ho memoria e consapevole di ciò che era Carosello, che cos'era quella scansione criminale della nostra serata fanciullesca, che dovevamo andare a letto come viatico per i nostri sogni, avere il lancio della pubblicità, quelle orribili casette e quelle mamme col grembiulino e l'abito della festa, quei papà terrificanti che rientravano sempre stanchi, volevano le pantofole e la poltrona, e tutte quelle sconcezze che hanno così fortemente influenzato il nostro immaginario. Carosello nasce nel 57 e fino al 77 rappresenterà veramente il tessuto connettivo dell'immaginario degli italiani. 800 24 00 24, cominciamo a camminare nel tunnel degli specchi parlando di Carosello. Ciao Gianluca, io ho fatto vedere col computer il sito del Mondo Carosello, mio figlio di 1 anno e mezzo, e gli sono piaciuti i filmati, quindi probabilmente è proprio per la semplicità delle cose dette come erano dette ai tempi, non è nient'altro, non sono le immagini convulse che si vedono adesso dei caroselli e complicate. Allora, ho detto, nasce nel 57, Carosello, dura per una ventina d'anni, andava dalle 20:50 alle 21, tranne il Venerdì Santo non era stato mai sospeso, 2 volte è stato sospeso, quando hanno assassinato John Fitzgerald Kennedy e il giorno della strage di Piazza Fontana. Poi, imperturbabile, intoccabile, indelebile, doveva essere una cifra costante nell'immaginario degli italiani che crescevano nel desiderio, crescevano nella volontà di acquistare, crescevano in modelli che la televisione lentamente, in maniera subliminale, ancora non se ne rendevano conto, ancora non erano state scritte le trattatistiche sulla televisione che influenza la realtà, ancora non si immaginava che la televisione suggerisse stili di vita, la televisione era un oggetto misterioso che era entrato nel salottino come fosse un mobile come tanti altri, lo coprivano con una tendina fatta all'uncinetto le mamme per nasconderlo, quasi avessero pudibonda riluttanza a tenere in mezzo ai loro mobili qualcosa che si accendesse, che fosse un elettrodomestico. Gli elettrodomestici stavano in cucina, non stavano in salotto. Beh, Carosello allora aveva realmente una cifra artistica notevole, anche perché si era usciti da qualche anno dalla guerra, ma diciamo alcune professioni ancora avevano del tempo per ingranare, quindi grandi illustri registi come Luciano Emmer, Age Scarpelli, Emmer poi proprio quello che l'ha inventato, Magni, Grigillo Pontecorvo, Olmi, Sergio Leone e via dicendo, fecero caroselli, anche grandi attori come Totò, Macario, Gilberto Govi, Gassman, Dario Fo, Mina, Edoardo De Filippo, insomma il fiorfiore dell'intelligenza creativa italiana di quegli anni faceva pubblicità. Allora non faceva schifo fare pubblicità, non veniva considerato un'azione di tono minore, erano attori di teatro, ma il teatro non dava sempre da vivere, quindi facevano la regia, facevano i protagonisti di Carosello, la stessa cosa valeva per i registi. Ora 800 24 00 24, quanto la pubblicità incide nella vostra esistenza, quanto vi riflettete nella pubblicità e quanto i vostri ricordi affiorano nell'ascoltare appunto vecchie pubblicità. Calimero, il pulcino nero. Sì, lava bene, lava bianco, lava a fondo e pulito, ma soprattutto è bucato garanzia. Ringo, Ringo. Gigante, pensaci tu. Ci penso io. Dubito, caro Hernandez, che lei sia felice di vedervi. Possibile, io tengo mucho alla stima dell'ispettore Trego. Ecco la piramide. Voi pensate che proposi questa domanda 10 minuti fa su Facebook, il luogo probabilmente dell'immaginario più dinamico e più legato all'attualità, la prima a rispondermi fu Chiara, una ragazza penso di 25 anni, vedo la foto, mi disse sono troppo giovane per questo, avevo detto parliamo oggi di Carosello e adesso stanno già arrivando decine di messaggi proprio sul fatto che la pubblicità sia il tessuto connettivo della nostra esistenza. Maria Giovanna mi dice Carosello forse è così attuale perché molti dei bambini che lo vedevano oggi sono gli adulti che fanno le cose, quindi il loro immaginario è animato e popolato di questi ricordi. È vero, la classe dirigente italiana, la classe politica italiana, poi in seconda parte avremo un esempio molto calzante, la classe creativa italiana è il gruppo dei 45-50enni nati e cresciuti con Carosello, da queste immagini meravigliose di pulizia, di energia, di merendine che facevano tanto bene. Poi ci fu la fase successiva in cui ci si rese conto che certi prodotti così belli per sbiancare, per pulire, in realtà ci sbiancavano, ci pulivano anche delle nostre difese immunitarie, che certe merendine in realtà poi creavano problemi di obesità e via dicendo. Emanuele dice, mi ricordo che avevo 6 anni quando imparai a sciare e per non cadere dallo skilift canticchiavo la canzone della pubblicità della Vaporella, lo stira facile ideale per la tua casa. Sì Gianluca, la pubblicità è uno dei tessuti connettivi dei miei ricordi, oltre agli odori e ai sapori. Michele, buongiorno. Sì, buongiorno Gianluca. Lei si intende di pubblicità? Io non mi intendo di pubblicità, io sono un utente, io guardo, ascolto la radio, vedo la televisione. Volevo solo fare una considerazione su come la pubblicità un pochettino è lo specchio dei nostri tempi, no? Di come una volta la famiglia felice era rappresentata nella pubblicità, vera o falsa, era un po' quello che era il nostro pensiero, mentre ora è cambiata. Per esempio, si rappresentano famiglie separate, componenti di famiglie separate col figlio di uno dei due componenti, oppure ancora coppie omosessuali, oppure ancora espressioni corporali che erano completamente censurate, mentre adesso no, adesso fanno parte, insomma, sono parte delle pubblicità. Quindi lei è d'accordo che esista questo tunnel degli specchi del Luna Park in cui noi ci muoviamo, che è il mondo della pubblicità, che a volte ci riflette, a volte ci deforma, a volte esagera quello che noi siamo, ma altre volte ci compiace, mostra quello che noi vorremmo proprio essere. Quindi una società relazionalmente, affettuosamente variegata oggi è rappresentata dalla pubblicità. Sì, sono d'accordo e me ne dispiace. Così. Si dispiace dei tempi che sta vivendo, ma questa è una circostanza che ha sempre colto l'umanità. Non siamo mai contenti e abbiamo sempre la nostalgia dei tempi che furono. Cerco di prendere le distanze, anche se comunque faccio. Ma distanze di cosa? Dalle ambiguità sessuali che vede rappresentate? No, più che altro da certi atteggiamenti, forse ufficiali, che vanno poco alla sostanza e più all'apparenza, insomma. Beh, la pubblicità non può essere sostanza, deve essere apparenza. Beh, però i prodotti sono sostanza, dovrebbero forse rappresentare un po' di più i prodotti, spiegare un po' di più le caratteristiche dei prodotti e non evocare... Oh, lei ha colto un punto interessante, la saluto, e che mi permette di presentare l'ospite che ho questa mattina, che è Massimo Carpegna. Carpegna, buongiorno. Buongiorno. Carpegna è un docente di filmica industriale alla Facoltà di Scienza della Comunicazione dell'Economia all'Università di Modena e Reggio Emilia. Ha scritto un libro, Spot, un film di 30 secondi, come nasce e si produce la pubblicità televisiva, per Franco Angeli. Però cerchi di essere meno esperto possibile, per favore. Sì, certo. Però ha capito cosa ha detto il nostro ascoltatore. Nella pubblicità non si vede più il prodotto, e mi sembra abbia colto il senso essenziale della deriva da Carosello ai giorni nostri. Ma dunque, diciamo che la pubblicità segue poi quello che fa il marketing, nel senso che oggi abbiamo su alcuni prodotti praticamente tutte le informazioni possibili e immaginabili, quindi questa è la macchina più veloce, questa è la lana più morbida. Nel contempo ci sono altri prodotti che costano molto meno e che sostanzialmente poi hanno le stesse caratteristiche. Quindi la confezione vale più del prodotto, diciamoci la verità. Esatto, e quindi e lo sappiamo il marketing tutti. Esatto, cerca di trovare delle nuove strategie. Adesso c'è questa nuova strategia, il Love Mark, che è stata così ideata da Kevin Roberts, dove praticamente si danno per scontato tutte queste cose, si cerca di attirare il cliente su altri fattori che sono fattori sensoriali, fattori che fanno amare quel prodotto al di là del prodotto stesso. Ci faccia qualche esempio, perché non ho capito benissimo. Cioè... Allora, non so, per esempio, se noi abbiamo, ecco, siccome io sono qua in Emilia Romagna, la terra dei salumi, diciamo, ecco, facciamo sì. Un esempio. Il profumo dell'Emilia Romagna si sente appena si arriva nelle nebbie della mattina, il profumo di maiale, di stalla, di sterco di maiale e di fabbrica di salumi, naturalmente. Esatto. Però questo come lo rappresenta con la pubblicità? No, però in qualche maniera forse la pubblicità ci riesce con alcune immagini. Io mi ricordo Salamino Porcellino, tutto genuino, che bontà. Ma non vado oltre. Comunque, ritornando al nostro salame, diciamo la al vostro, al nostro, sì, la pubblicità di alcuni anni fa puntava molto sul fatto che gli ingredienti erano selezionati, erano genuini, che aveva avuto una determinata stagionatura, che aveva avuto una determinata confezione, per cui ne garantiva l'assenza di qualsiasi tipo di batterio, eccetera, eccetera. Quindi l'informazione sul prodotto. È tutto genuino, vedi, l'ho detto, ho attinto, pensi, dalla mia memoria subliminale. Mi ricordo Salamino Porcellino, tutto genuino, quella era la cosa che mi ricordavo, non esatto, so nemmeno se esiste più. Esatto, sì. Oggi invece? Oggi invece il marketing si orienta su delle altre cose, quello specialmente delle ditte che hanno un nome prestigioso, e cioè diamo per scontato che è fatto con la ricetta migliore, con gli ingredienti selezionati, ma compra il salame, questo salame, perché è buono, perché ti dà un determinato piacere, hai un contatto, come dire, quasi sensuale nei confronti di questo prodotto. Quindi diciamo si è spostato il marketing non sulle nozioni, come diceva il signore prima, specifiche di, appunto, di informazione sul prodotto stesso, ma che cosa coinvolge questo prodotto nella tua vita personale. Quindi per questo l'aspetto della sensualità è diventato, esatto, così preponderante. Esatto, esatto. Cioè immagino persone stravaccate morbidamente, uomini, donne, visto che oggi l'indifferenziazione sessuale è un'altra delle chiavi della pubblicità, abbracciati a questo salamone per dire quanto fa star bene starci assieme, una cosa del genere. Esatto, sì, cioè, esatto, è proprio così. C'è anche da dire un altro fatto, io mi aggancio un attimo al discorso che faceva lo spettatore precedente e il ricordo di questo Carosello. Io appartengo, ahimè, purtroppo a quella generazione che andava proprio a dormire con Carosello. Per fortuna, purtroppo. Ho 53 anni, quindi me lo ricordo molto Siamo bene. Quasi coetanei, quindi figuriamoci, a vantaggio suo. Quindi, benissimo, ma noi abbiamo la possibilità di essere ponte fra queste diverse interpretazioni del tunnel degli specchi. Sentiamo un attimo Laura. Laura, buongiorno. Sì, buongiorno. Io ho chiamato perché sono cresciuto anch'io con Carosello e l'ho sempre guardato come se si guarda un pezzo teatrale, cioè con divertimento. Lei cammina nel tunnel degli specchi tuttora? Scusi? Cammina tuttora nel tunnel degli specchi della pubblicità in cui si riflette? Sì, certo, guardo ancora la pubblicità con occhio quasi ad assistere a un evento di rappresentazione filmica, teatrale, cioè non mi faccio influenzare sicuramente dal prodotto, quindi la guardo sempre con lo stesso occhio di quando ero bambina. Sì, però quale pubblicità si ricorda lei? Quella legata ai ricordi da fanciulletta o quelli di adesso, da signora adulta? Non la sento benissimo, mi scusi. Dico, si ricorda più la pubblicità, rimane più impressa la pubblicità storica. Noi abbiamo avuto 20 anni di pubblicità storica, era più di che pubblicità, entrava nel nostro personale, nella nostra personale maniera di percepire il mondo, che è Carosello. 20 anni di Carosello, ancora se uno dice Carosello, anche se non l'ha mai visto in televisione, ne è ancora contaminato. Oggi la pubblicità sembra sovrascriversi uno spot sull'altro, non ci sono pubblicità storiche negli ultimi 5-6 anni. No, probabilmente no, non hanno lo stesso contenuto di incisivo. Noi, vabbè, siamo cresciuti con quell'immaginario, però probabilmente per i ragazzi di oggi invece questo succede, quindi è abbastanza difficile togliercelo, il nostro immaginario, no? Cioè, che si sovrapponga l'attuale pubblicità a quella della nostra crescita. Grazie Laura. Erasmo, buongiorno. Erasmo, ciao. Spenga la radio però. Sì, buongiorno. Eccomi. Io volevo così un po' sottolineare due aspetti di questa interessante discussione che stiamo tenendo stamattina. La prima è che in effetti, ed è una differenza credo fondamentale rispetto alla pubblicità di oggi, allora quasi non si capiva il prodotto fino alla fine. In effetti c'erano delle vere e proprie piste teatrali, così diciamo un po' quasi una ficzionante lettera, ma no, con 40 anni di anticipo si arrivava alla fine quando usciva il prodotto e uno capiva, ah ecco questo era, ed è una differenza enorme, sostanziale. Sì, però la sorpresa era abbastanza limitata, che quando si dà Calindri in mezzo al traffico con le automobili, è chiaro che era il Cinar, quando c'era la mucca Carolina. Delle vere e proprie pezzi di recitazione, come per esempio quello dell'automa perfetto che arrivava in casa a ripulire tutto, perché gli italiani volevano riempirsi la casa di elettrodomestici. E poi ecco questo rapporto diretto con i bambini, cioè interi cartoni animati con personaggi creati apposta che facevano il loro sviluppo della storia e poi alla fine usciva fuori il prodotto. Questo perché lo voglio dire, nel senso che forse il pensiero del Carosello per noi bambini era soprattutto quello legato al fatto non tanto del prodotto ma quanto della storiella, che poi alla fine, giustamente come dici tu, però andava a riferirsi poi. Questi bambini poi naturalmente sarebbero dovuti crescere, chi faceva pubblicità allora sapeva, investiva nel futuro, bambini che poi crescerebbero, saranno cresciuti, poi avranno avuto in mano le leve della società e avranno contaminato con quell'idea del prodotto, quel rapporto col prodotto, anche la loro area di attenzione, diciamo. Voglio la caramella che mi piace tanto. Basta bastano una o due pastiglie da masticare o succhiare e tanti saluti a bruciori, acidità, pesantezza di stomaco. Digestivo Antonetto, con 400 lire e 45 pastiglie per tanto benessere. Chiamami Peroni. Sarò la tua birra. Non arrabbiatevi per un nonnulla. Purtroppo i nostri nervi sono sempre a fior di pelle perché il ritmo della vita moderna ci sottopone ad un logorio continuo, incessante. Ma dal logorio della vita moderna ci possiamo difendere. E la difesa è Cinar, l'aperitivo a base di carciofo. 800240024. Stiamo camminando nel tunnel degli specchi del Luna Park. Il tunnel degli specchi è la pubblicità, che ci riflette, che ci dà immagini distorte, che a volte ci mostra fedelmente, che diventa il modello di noi, di quello che vorremmo essere, di quello che ci piacerebbe essere, ci rappresenta dei modelli dei quali probabilmente siamo distanti. Insomma, 800240024, la radice di tutte le pubblicità, la madre di tutti gli immaginari legati ai prodotti è Carosello. Ogni volta che proponiamo Carosello alla radio si accendono i ricordi. Mi scrive Giovanna su Facebook che è un luogo in cui dovrebbero stare persone giovani che non hanno mai visto Carosello eppure ne sono contaminate. Giovanna dice contaminatissima almeno una volta al giorno, una citazione carosellesca laggiù nel Montana. Fra mandri e cowboy c'è sempre qualcuno di troppo tra noi. Black Jack, come fate a non ricordarvelo? Fabrizio, se si ha una propria mentalità con idee solide e robuste, si è in grado di non essere trasportati dalla piena della mentalità imperante. Soprattutto bisogna conoscere e sapere sempre un po' più di tutto. Povero Fabrizio, illuso. La televisione ci contamina anche quando è spenta. L'intellettuale medio che mi telefona e mi scrive e mi dice io non ho più il televisore, lo tengo spento, non lo guardo. Non si illuda. La televisione anche quando è spenta ci trasmette qualcosa. Buongiorno Diego. Ciao. Allora, ascolta. A me veniva in mente, mentre tu parlavi, quanto la pubblicità si dichiari, sia trasparente. Ma l'ha detto il nostro esperto poco fa, si dichiara al punto tale, non ha più nemmeno bisogno di parlare del prodotto, sa già che il prodotto ce l'abbiamo dentro, ci dice solo che ci piace, ci fa bene alla pelle, ecco. No, perdonami, il discorso è un altro, io vorrei invece sapere quanto altro marketing non si dichiara. Immagina di sentire le notizie, per esempio, dei telegiornali, in particolare di Mediaset, dove i conduttori alterano la voce per attirare la tua attenzione, piuttosto che il marketing politico. Allora io dico questo. Anche io altero la voce per fare la voce tenebrosa e piacevole. Allora, tutti dobbiamo vendere. Allora io direi, perché è una legge ineluttabile, ahimè. Impariamo il linguaggio pubblicitario, impariamo a decodificarlo e impareremo a leggere ciò che di marketing ci viene. Ma guarda che ci sono scuole che insegnano tutto, dal turlupinare i poveri ingenui a sedurre le signore di buona famiglia, a vendere gli spazzoloni per il gabinetto, tutto ormai è una scienza questa cosa qua. Assolutamente, io per esempio non ho seguito corsi, però faccio questo lavoro e ci ho messo 20 anni. E che fai te, cosa vendi? Io faccio il copywriter. Ah, sei un copy, perfetto. Però nel tecnico, quindi non nei prodotti di largo consumo. E quindi imparare a decodificare per me questo linguaggio è stato estremamente utile. Ecco, senti, tu sei un copy, perfetto. È quello che scrive il testo di quello che poi l'ha diretto. Anche l'idea, eh? Sì, vabbè, poi esistono varie scuole di pensiero all'interno delle agenzie. Certo. Se senti i tuoi colleghi magari mi dicono il contrario. Poi questo non ci interessa. Comunque c'è una fabbrica oggi molto specializzata che è quella che crea la pubblicità. Ecco, tu a cosa ti ispiri? Perché tu devi fare un testo che in realtà è un testo che deve essere simile a una sorta di tagliola in cui le persone devono lasciare il piede e lasciarci lo zampino, naturalmente. Io devo essere molto etico nel mio lavoro. Sì, vabbè, dai, etico. Ma non ci prendiamo in giro. Ma non, la pubblicità non può essere etica. No, è un controsenso. Massimizzo i vantaggi e minimizzo gli svantaggi. E questo non è essere etico. Questo è una piacevole, interessante e è la molla dell'economia, maniera per ficcarla nei posti deboli del tuo pubblico. Ma è giusto che sia così. Non vedo perché dovrebbe essere diverso. Io mi occupo di farmaci. Devo dirti la verità, la salute delle persone mi sta comunque a cuore. Sì, vabbè, però anche l'indurre malattie che non esistono, l'indurre malesseri che non esistono, insistere. Potrei parlarti da qui a domani di queste cose qua. Non ci penso nemmeno di indurre malattie. Però spiego, per esempio, come... Scusami, tutte le pubblicità che si sono queste signorine con le pance gonfie, che sembra sempre che devono sgassarsi completamente, che si prendono le pasticche miracolose e improvvisamente perdono 3 taglie. Dai. No, ma questo non è ambito medico. Ambito medico. Questo è un ambito molto ben preciso di OTC, ossia di farmacia. Anche in ambito medico, poi tagliamo perché sennò andiamo fuori discorso. Noi sappiamo che esistono delle molecole comuni con cui ci sono i farmaci più usati, capito? Molte volte. Che io personalmente uso, infatti, per risparmiare. Ecco, io invece comprare la medicina con il nome che tutti conoscono da tanto tempo, vado e chiedo il paracetamolo, che costa molto meno, e sto bene lo stesso. Assolutamente. Quindi il tuo compito è costringermi a prendere quella bella scatoletta. No, però io sono convinto che se tu vai a comprare il paracetamolo di marca non lo paghi più del paracetamolo generico. Ah beh, può essere, certo, perché sì, però siccome non lo conosco ancora, non è arrivato a me questo messaggio. Ho capito. Sì, ma io non sono un campione piuttosto atipico, sono molto distratto rispetto a quello che mi accade. Concludi, Diego, se no sai che purtroppo me, indipendentemente dalla mia volontà, abbiamo uno strumento di marketing molto radicale. Noi. Semplicemente impariamo questo linguaggio e impareremo a essere più trasparenti. Bravo. Gianpiero, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Gianluca, io peraltro sono medico, quindi su quella che è la trasparenza della pubblicità dei farmaci avrei tanto da ridire. Sei qua amica, l'importante è che non mi fai avere querelle, poi puoi dire quello che pensi, basta non fare nomi. La cosa che volevo dire... No, dimmi, perché mi interessa l'altro lato dello specchio. Qual è il punto debole della pubblicità? Quello che accade è che si spinge molto sulla diagnosi di malattie che in realtà molto spesso sono silenti. L'esempio, quello classico che viene fatto, che però è reale, è che ad esempio i livelli, faccio l'esempio del colesterolo, pericolosi per quella che è la vita del paziente, sono stati abbassati negli ultimi 10 anni. Quindi persone che 10 anni fa erano sane e non dovevano prendere dei farmaci, oggi invece sono malate con gli stessi identici livelli di colesterolo. Ma questo è un perfetto argomento per essere benessere, lo riproporremo a Nicoletta Carbone. No, ecco, quello che volevo dire io poi era un'altra cosa, era che in realtà io sono del 79, sono giovane, quindi il carosello non l'ho mai visto, i miei ricordi sono quelli degli spezzoni che si vedono alcune volte in televisione. Mm. I miei ricordi romantici sulla pubblicità sono i vecchi consigli degli acquisti di Mike Bongiorno invece che la classica pubblicità. Ed in effetti io penso che una volta si desse per scontato che la persona doveva fare degli acquisti e di conseguenza la pubblicità serviva a consigliare quale potesse essere il migliore o il peggiore oggetto da comprare. Oggi invece la pubblicità si basa su qualcos'altro, si basa sul far venire voglia alla persona di acquistare. Ecco perché si perde il romanticismo. L'oggetto della pubblicità non è più l'oggetto però, che la persona deve guarda, acquistare. La voglia di acquistare è ancora una delle poche voglie che non vengono censurate da una società sempre più codina, sempre più attenta a farci sentire in colpa per le nostre voglie. Vai a acquistare e dimentica le altre voglie, è un messaggio abbastanza diffuso secondo me. Sì, però il fatto di creare un bisogno, secondo me oggi la pubblicità cerca di creare un bisogno che la persona non sente. Il mio esempio in questo caso è quello dei videofonini, una cosa di cui nessuno sentiva il bisogno perché nessuno aveva voglia di star lì a guardarsi la televisione sul cellulare, eppure per un certo periodo le pubblicità in televisione ci hanno fatto credere che per essere bravi, per essere belli, per poter stare comodi, farsi viaggi in treno, in santa pace, bisognasse a tutti i costi avere un videofonino. Oddio, a qualcuno sentirsi dire videochiamami non è che ha portato poi tutto questo gran bene. Ti saluto. Massimo Carpegna. Eccoci. Ecco, hai sentito un pochino le tensioni e le impressioni dei nostri ascoltatori? Sì, tra l'altro molto interessanti, e vorrei aggiungere una cosa sul carosello, che la tendenza, diciamo, proprio delle agenzie pubblicitarie, le più importanti di questi ultimi giorni, e di rifarsi proprio a carosello. Ah, perfetto. Perché... No, mi hai dato una grande notizia, perché fra un poco, dopo quest'altra pausa, parleremo di una nuova televisione che nasce domani, che ha fatto una campagna, tu resterai con noi perché ci serve il tuo illuminato parere, non sto ruffianandomi con l'ospite, lo dico perché mi diverte dirlo, è un mio modo di dire, nessuno è illuminato qua. Diciamo, una televisione che nasce come televisione modernissima, con mezzi fantasmagorici, tecnologici, e però ha messo come testimonial una signorina che sembra tratta fuori da un carosello di 30 anni fa. Quindi è molto trendy oggi rifarsi a carosello. Esatto, sì, ma ci sono varie ragioni, alcune diciamo di carattere... così, come dire, forse nostalgico, perché i bambini appunto del carosello sono poi dopo i creativi, le persone adulte di oggi. Ma sono anche politici, sono coloro che fanno l'economia, sono i manager. Esatto, sono quelli che hanno le leve, come hai detto tu. Quindi facciano bene quelli di carosello a investire tanto su questo aspetto fanciullesco, il cartone animato, cioè infilavano dentro una sorta di microchip che è ancora attivo. No, guarda, la questione è un'altra, è che è stata così sollevata forse dal primo ascoltatore che ha interpellato nella prima parte, cioè il fatto che poi nessuno è contento dell'epoca nella quale vive, ecco. Sì, ma lo dicevano già le prime fonti di scrittura che noi abbiamo, già dicono qualcosa del genere, già negli antichi greci era questa percezione. Esatto, sì, sì. 800240024, stiamo parlando del rapporto tra realtà e pubblicità, tra pubblicità e televisione, tra umanità e televisione. Quindi non posso fare a meno che confessarvi una piccola bastardata che ho fatto ieri, però mi era molto funzionale a quello che stiamo parlando in questo momento. Ieri era uscita la notizia che da domani andrà in onda una televisione che nasce con i principi più innovativi della televisione, che è la televisione in cui i contenuti sono generati dagli stessi utenti. È la televisione del Partito Democratico, una delle due televisioni del Partito Democratico, è stata lanciata da Walter Veltroni, UDN TV, la televisione che andrà in un canale satellitare Sky, meravigliosa possibilità di creare contenuti, di fare una sorta di operazione antagonista rispetto alla televisione che invece è rappresentata da Mediaset, la televisione della pubblicità, la televisione del profitto, la televisione del consumo, la televisione di tutto quello di cui naturalmente si parla da 20 anni, ma non mi interessa molto. Però io ho notato che questa televisione era lanciata sui giornali con un'immagine pubblicitaria che mi ha molto colpito, perché assomiglia moltissimo all'immaginario che abbiamo appena raccolto. Negli ultimi anni il modo di fare televisione è radicalmente cambiato. Oggi, nell'era di YouTube, il pubblico svolge un ruolo da protagonista, partecipa direttamente alla costruzione di palinsesti televisivi come quelli di Current e alla realizzazione di programmi cosiddetti user-generated. Noi vogliamo essere in sintonia con questo cambiamento, confrontandoci con i cittadini che rappresentiamo. Perché oggi la televisione non è più solo strumento di informazione, ma occasione di ascolto, interazione e confronto. UDEM. Ecco, di fronte a questo messaggio di televisione altamente tecnologica contrastava l'immagine che è uscita ieri sui maggiori quotidiani, ad esempio su Repubblica. Ve la descrivo perché su questa immagine io ho composto un questionario che ho proposto ai miei amici di Facebook, che poi sono quasi 4.000 persone, non sono proprio due, e ho raccolto i loro pareri. Io l'ho vista così, 6 punti. È una signorina che tiene in mano la carcassa di un televisore e fa una sorta di peep show dietro questo schermo del televisore e si mostra, fa capolino. Il televisore è un televisore anni 70, di plastica, bruttissimo, di quelli in bianco e nero. La signorina ha una camicetta orrenda, ha quelle camicette Burberry, quelle a scacchi che andavano molto negli anni 80, le portavano le signorine di buona famiglia, ma oggi una ragazza di 20 anni come lei non se la metterebbe nemmeno sotto tortura. Al collo le hanno messo una collana orrenda, con delle grosse perlone di plastica rosse, non si capisce perché. La cosa inquietante è che alle spalle ha un'inferriata come se fosse imprigionata in galera. Poi ha un sorriso fisso, strano, insomma mi sembrava qualcosa che appartenesse a un'altra epoca. L'ho proposto su Facebook e mi hanno dato delle risposte, non so, ve ne do qualcuna. Sara dice: nel caso che il verde acqua in sottofondo sia stato scelto per infondere una sensazione rassicurante dell'occhio per chi la guarda, a me pare proprio che quel verdino lì, assieme al rosso della collana di finto corallo e probabilmente anche finta plastica, a quel triste marroncino della camicia diano al complesso una sensazione di squallore. Elena dice: è un verde sanitario da sala chirurgica, ricorda anche le seggiole da cucina, da ambulatorio, anni 50 in tubolare d'acciaio e formica. Per dare una chance ai creativi di turno potrei anche pensare che tutto sia stato studiato per essere profondamente, elegantemente, ironico, citazionale. Poi andando avanti, Tommaso dice: i cari compagnucci non vedono la TV, anzi si piccano di non possederne nemmeno l'apparecchio televisivo. Vedi tanto il profilo di Giulio Mozzi su Facebook. Cosa ne faranno mai di un emittente? Comunque la TV sei tu, che è lo slogan che sta scritto sotto, è riciclato dalle Coop. Poi andiamo avanti. Davide: penso che la ragazza sia un'archetipica signorina buonasera, che però non lavora più in televisione, perché oggigiorno il contenuto è un prodotto dal pubblico, quindi YouTube, Current TV e via dicendo. Quindi non si assumono annunciatrici, è un immaginario vintage. Maria Giovanna: per chi parla la signorina in questione contemporanea, a chi e che cosa? Sembra la scatoletta del Dado Star anni 60. Poi Emanuela, poi finiamo, è veramente bruttina l'immagine del PD Tube che esce dal filmatino. Quale target si rivolge? Chi vuole rassicurare? Non siamo trasgressivi, siamo puliti educati. Chi vuole allontanare? E se poi tutto ciò non fosse stato pensato a tavolino, allora sarebbe una tragedia. Beh, questo è il risultato, potete andare a vedere su YouTube dei miei malversati amici su Facebook, e quindi vorrei capire di più come nasce questa pubblicità. E l'ospite in studio fino a poco fa ci ha fatto capire che in realtà è molto trend e molto attuale, e qual è stato il contrasto che ha fatto mettere un'immagine così dimessa su una televisione invece così avanzata. E ce ne parla oggi l'onorevole Alberto Losacco. Buongiorno, onorevole lei. Buongiorno. Deputato e responsabile eventi e campagne promozionali del Partito Democratico. Non è che le ho teso una trappola, però ci tengo a capire come mai avete scelto quella signorina così dimessa per lanciare una televisione che invece ha una così forte e interessante valenza innovativa. Nessuna trappola, anzi, dei commenti bellissimi, soprattutto quelli dalla camicetta. La camicetta è orrenda, ma come la camicetta Barberi, non se la mette più nemmeno mia nonna. Però che è morta. Qui non ha 20 anni, questa è una signora almeno quarantenne. Ma è ancora più triste una quarantenne che si veste così. Beh, no, andiamo appunto, no, vorrei capire che pensiero c'è dietro. Tra il vecchio e il nuovo, e poi tutto pone l'accento sul 14 ottobre, che per noi non è una data qualunque. L'anniversario delle primarie, il PD ha nel suo DNA la partecipazione, e questa TV con lo slogan, no? La TV che sei tu, che sintetizza quello che... Com'era la COP però, la COP sei tu. Beh sì, insomma, però... No, però, diciamo no, perché vogliamo sviscerarla in tutti i frammenti di immaginario che dovrebbe richiamare. Questo, diciamo, la TV sei tu è un ricordo, è una traccia di passato storico probabilmente. Qualcosa del genere ha utilizzato anche YouTube. Ecco, perché il televisore anni 70 poi? Appunto per il contrasto tra il vecchio e il nuovo. Ah, ecco. Un logo così moderno, uno strumento così moderno che va sul web, sul telefonino, sul satellite, e poi questo accessorio anni 60. La collanina che ha colpito molti di perloni. Ma di plastica. Tutta la campagna è giocata sul contrasto, uno studio televisivo molto moderno, qualcosa che può anche assomigliare ad un loft. E poi questo schermo televisivo, appunto. Ma non vi siete posti il problema delle inferriate alle spalle, che sembra un po' un carcere? Ma il carcere veramente non lo vedo da nessuna parte. È uno studio televisivo, è chiaramente uno studio televisivo. Devo dire che però l'interesse, le persone a cui ho proposto in maniera anche provocatoria questa cosa qui, però volevo capire le radici profonde del contrasto, l'hanno invece sentita come qualcosa di minimale, qualcosa in cui non si è investito in creatività. Lei invece dice che è esattamente il contrario. Esatto, noi vogliamo stimolare le persone ad inviarci contributi, e quindi devo dire che se ci sono stati quei commenti la campagna è riuscita. Questo sicuramente. Si può sapere, senza dire il nome, chi è la signora, visto che tutti se lo chiedevano, cosa fa nella vita? Non voglio sapere chi sia. E c'è stata una grande curiosità, qualcuno ha detto liberiamo la signora dalla pubblicità UDEM, volevano mandarla a cercare tutto, per capire chi rappresenta quella signora. La signora vuole mantenere la sua privacy. No, no, ma chi, no, non voglio sapere il nome. Chi rappresenta? Una madre, una maestra, un insegnante, una professionista? Rappresenta un'elettrice del PD, una normalissima elettrice del PD con famiglia che torna a casa e utilizza i nuovi strumenti che la tecnologia mette a disposizione per collegarsi con il Partito Democratico. Bene, Anna Maria, buongiorno. Sì, buongiorno. Pronto, mi sente? Sì, tranquilla, non parte la motosega, può parlare tranquillamente. Scusi, mi accorgo. Sì. Ha sentito quello che abbiamo detto finora? Sì, sì, sì, ho sentito. Lei la metterebbe la camicetta Barberi? Però secondo me è stato fatto apposta ed è riuscito. Vabbè, sì, il fatto che ne parliamo comunque hanno raggiunto un obiettivo. Esattamente, ha raggiunto, comunque ha creato un'emozione e un interesse. Vabbè, anche la tristezza è un'emozione. Anzi. Esatto, può essere. E quindi proprio a questo mi volevo collegare, questo esempio di questo spot indicativo, sul fatto che oggi assistiamo a una sorta di reverse marketing, cioè... E ormai i consumatori vogliono essere riconosciuti e vogliono partecipare. Lei come si vedrebbe rappresentata, signora? In una parola, visto che siamo in conclusione, io saluto Carpegna, grazie, ma c'è l'ascoltatrice, sì. È talmente tanto esperta, ha detto anche Reverse Marketing, che un esperto a questo punto deve solo stare a ascoltare. Signora, mi dica in 30 secondi come si sentirebbe rappresentata. Si rappresenti lei con la carcassa del televisore in mano e vediamo se riusciamo a dare un'idea. Io sono diversa ogni giorno. E quindi no, non blefi, com'è adesso? Su. No, e quindi adesso come voglio essere riconosciuta? Oggi voglio essere riconosciuta magari come mamma, domani voglio essere riconosciuta. Sì, ma dica adesso, in questo momento. Ah, proprio le diceva, sì. In questo momento? In questo momento sono una donna indaffarata, con una giornata piena di impegni e di problemi da risolvere. Va bene, se ne risolva qualcuno, noi dobbiamo lasciarla, non possiamo risolvere nessun altro che è quello di evitarle la motosega. Io saluto, ringrazio, ci sentiamo domani. Email melog@radio24.it. Melog va in replica questa sera alle 22:00.